Quella notte il sonno fuggiva il re ed egli ordinò che gli si portasse il libro delle memorie, le cronache, e se ne fece la lettura davanti al re. Egli vi trovò scritto che Mardocheo aveva riferito al re riguardo a Bigtan e Teres, i due eunuchi del re appartenenti alla guardia del soglio che volevano portare la mano contro il re Assuero, e domandò: che onore e distinzione abbiamo dato a Mardocheo per questo? Gli risposero i giovani addetti al suo servizio: non gli è stato dato nulla. Il re allora domandò: chi c'è nella corte? Proprio Aman veniva nella corte esterna della casa del re per chiedere al re di impiccare Mardocheo al patibolo che aveva preparato per lui. I giovani cortigiani risposero al re: ecco, c'è Aman nella corte. Il re disse: venga. Aman entrò e il re gli disse: che cosa si deve fare a un uomo che il re ha piacere di onorare? Aman pensò in cuor suo: chi più di me il re ha piacere di onorare? E rispose al re: per l'uomo che il re si compiace di onorare, si facciano venire vesti regali che ha indossato il re, e un cavallo che è stato montato dal re, e sul suo capo sia una corona regale. Il vestito e il cavallo sia dato a uno dei più eminenti principi del re, e ne rivestano quell'uomo che il re si compiace di onorare. Lo si faccia montare sul cavallo nella piazza della città, e si proclami davanti a lui: così si fa all'uomo che il re si compiace di onorare. Il re disse ad Aman: presto, prendi il vestito e il cavallo di cui hai parlato, e fa così a Mardocheo, l'ebreo che siede alla porta del re. Non tralasciare nulla di quello che hai detto. Aman prese il vestito e il cavallo, rivestì Mardocheo, lo fece montare sul cavallo nella piazza della città e proclamò davanti a lui: così si fa all'uomo che il re si compiace di onorare. Mardocheo tornò alla porta del re e Aman si affrettò a casa sua, afflitto e con la testa velata. Raccontò a Zeres, sua moglie, e ai suoi fedeli tutto quello che era successo. I suoi saggi e Zeres, sua moglie, gli dissero: se Mardocheo, davanti a cui hai cominciato ad abbassarti, è della stirpe degli ebrei, non potrai resistergli, ma tu cadrai davanti a lui. Non avevano ancora finito di parlare che arrivarono gli eunuchi del re e si affrettarono a condurre Aman al banchetto che aveva preparato Ester.